America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Washington. Mario Platero, sono nella capitale americana per la visita del presidente del Consiglio Mario Monti. È arrivato ieri sera, fra poche ore sarà in Congresso a incontrare John Boehner, il presidente della Camera, e poi una conferenza, un incontro con economisti, vecchi amici economisti al Peterson Institute for International Economics, e alla fine l'incontro alla Casa Bianca col presidente Barack Obama. Si parla molto qui a Washington, in generale devo dire in America, di questa visita. C'è molta curiosità e c'è molta attesa per la venuta di un personaggio nuovo dall'Italia, e Monti tra l'altro ha colpito già un po' l'immaginazione qui nella capitale, perché molti hanno ascoltato già la sua voce. I try to avoid that backlash by always presenting the necessary sacrifices that Italians have to go through, not as an imposition from Brussels or Germany or the European Central Bank, but rather as a necessary step that Italians have to undertake also at the suggestion of Europe, but basically for their own interest. Vi ho fatto ascoltare un estratto dell'intervista che Mario Monti ha avuto con Margaret Warner della PBS, del Newsletter Hour, il telegiornale più seguito americano, quello direi sicuramente più prestigioso. Margaret Warner ha fatto varie domande al nostro Presidente del Consiglio, e in questo caso Monti, con la pacatezza che lo contraddistingue, ma anche con la fermezza che lo contraddistingue, dice: il mio principio è quello di non dire agli italiani che certe decisioni, certi sacrifici, certe misure, certi cambiamenti debbono essere fatti o adottati perché sono imposti da Bruxelles o dall'alto, ma perché sono necessari per lo sviluppo del nostro paese, per rimettere il nostro paese in carreggiata. Ecco, un personaggio molto diverso rispetto al suo predecessore, quello che arriva a Washington. Ellen Thomas su New York Times ha scritto così: un piccolo confronto tra Barack Obama, che si incontrava con Silvio Berlusconi e che lo manteneva a distanza. Dice: per 3 anni Obama ha tenuto un po' a distanza Silvio Berlusconi e ha trattato il primo ministro italiano, e poi scrive: quello del bunga bunga, quello dei parti sessuali, con una certa correttezza gelata. Mentre Nicolas Sarkozy partecipava a delle cenette con gli Obama alla Casa Bianca, oppure Angela Merkel aveva una visita di Stato, Berlusconi non era così benvenuto alla Casa Bianca. Ma ora, dice l'Italia, un nuovo primo ministro, Mario Monti, è il darling of the international stage, adorato nel palco internazionale, considerato un economista che può dare fiducia nell'Italia, e Washington, dice, lo accoglie a braccia aperte. C'è naturalmente una caratterizzazione forse idealista, e dunque credo che sia importante sentire la voce anche di qualcuno, di un politologo, di uno dei più importanti studiosi delle relazioni transatlantiche, le relazioni fra Stati Uniti ed Europa, Charles Kuchman, che è uno degli analisti più importanti del Council on Foreign Relations. Con lui ho fatto una lunga chiacchierata, devo dire il risultato è molto interessante. Vorrei farvi ascoltare alcune delle sue considerazioni su questa visita del nostro Presidente del Consiglio. The good news for Italy and for the United States is that the Italian government is back in the game. Kupchan mi dice: beh, qual è la buona notizia per gli Stati Uniti e anche per l'Italia naturalmente? Beh, la buona notizia, dice, è che l'Italia è tornata in gioco. E poi fa un riferimento molto interessante, molto importante, e Kupchan dice: c'è la possibilità che Monti possa diventare la persona di riferimento per l'America in Europa. Di solito questo ruolo è spettato al primo ministro britannico, ma nell'Europa di oggi l'Inghilterra è fuori partita, è isolata e rappresenta più un vicolo cieco che un ponte verso l'Europa per gli Stati Uniti. In questo contesto, dice Kuchman, Mario Monti ha l'opportunità di coprire il buco e di diventare una delle persone chiave nelle relazioni diplomatiche tra Europa e America rispetto alla crisi. Poi osserva: attenzione, gli Stati Uniti, la Casa Bianca, Obama devono stare attenti a non apparire pedanti con l'Europa, ed ecco perché gli incontri informali sono di straordinaria utilità. The visit has symbolic importance and can elevate Monti's standing in Italy and within the EU. Ecco, naturalmente c'è un elemento non secondario nell'interesse americano a che non soltanto questa visita vada bene, ma raggiunga gli obiettivi che poi Obama vuole. Obama chiederà a Mario Monti di rendersi interprete di un messaggio forte degli Stati Uniti, un messaggio orientato verso la crescita. E dunque, secondo Kuchan, è nell'interesse di Obama non soltanto di avere un dialogo costruttivo, un dialogo aperto, un dialogo di recupero appunto di questo rapporto, ma sottolinea: Obama può elevare la posizione di Monti in Italia e nell'Unione Europea. Si tratta di un passaggio determinante se Monti intende far sentire la sua voce con Angela Merkel affinché il governo tedesco prenda una posizione più equa e sia disposto a mettere più capitali a disposizione per impedire che l'Europa scivoli in una crisi peggiore di quella in cui si trova. Well, Monti is headed in the right direction, but let's be honest, the obstacles are considerable. Una corsa tutta in discesa? No, sottolinea Kuchman, la corsa è in salita, gli ostacoli sono considerevoli, dice lui, a un governo tecnico, ma le sue misure devono essere approvate dal Parlamento italiano, che è polarizzato e non sarà facile convincere i sindacati e gli altri a mandar giù la medicina. E quindi sottolinea che sotto un certo punto di vista la strada di Monti è tutta in salita. Ma qui ecco un'osservazione chiave, devo dire, mi hanno colpito queste parole, perché è raro sentirle nei confronti di un leader italiano. Dice: un leader nuovo rappresenta senz'altro un nuovo raggio di sole nello scenario europeo. A questo aggiungerei che le sue inclinazioni politiche e intellettuali sono in sintonia con quelle di Washington, ma non sottovaluterei gli ostacoli che si trova di fronte. Questo Obama non dovrà dimenticarlo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Visto che c'è questo incontro, questo recupero di rapporto fra Italia e Stati Uniti, abbiamo parlato di massimi sistemi, vi ho accennato un incontro con la comunità italoamericana, e dunque vorrei dedicare proprio agli italoamericani, i nostri cugini d'oltre Atlantico, la canzone del giorno, Dean Martin, That's Amore. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see back in old Napoli, that's amore. Washington è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.